Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica, torniamo a parlare di cicloturismo, dei viaggi sulle due ruote sognati, immaginati che magari faremo una volta terminata la pandemia, ma anche delle pedalate che si possono comunque fare adesso, anche piccole escursioni, ma anche pedalate più lunghe e perché no, virtuali. Oggi terza puntata speciale dedicata ai vincitori del bando Bike Touring di Invitalia Fattori Imprese e Mibat con due progetti. Vi presentiamo Move, piste ciclabili, modulari e smart realizzate con materiali di recupero dalla plastica, e Pedalitali, una piattaforma per pedalare virtualmente in Italia scoprendo gli angoli più belli del nostro paese, specializzata anche nell'organizzazione di gare ed eventi turistici digitali a pedali. Ma ce lo spiega meglio il cofondatore, amministratore e delegato Gabriele Mirra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Alessandra, buon pomeriggio a tutti. Allora, Pedalitali combina format virtuali con tour reali, puoi spiegarci meglio questo concetto e qua anche qual è la differenza con altre piattaforme di allenamento virtuali? Sì, proprio come dici tu, Pedalitali nasce proprio per realizzare questa missione. Infatti noi abbiamo una, come tagline del nostro logo, è Virtual and Real Cycling, proprio a significare che il nostro progetto parte dal virtuale, ma poi vuole dare la possibilità a tutti gli appassionati di pedalare anche fisicamente. L'idea nasce in piena pandemia, nel corso dello scorso mese di marzo. È una nuova startup che io ho cofondato con Endu, che è la piattaforma italiana leader negli sport di endurance, e ha proprio l'obiettivo di sviluppare un nuovo concept digitale per ideare e realizzare eventi virtuali unici in Italia, con lo scopo appunto di dare la possibilità ad appassionati da tutto il mondo di partecipare alle competizioni di ciclismo italiane più rilevanti e soprattutto di far scoprire le più belle mete del nostro paese. Il nostro format è particolare ed innovativo proprio perché coniuga non solo gli aspetti ciclistici con quelli più di intrattenimento e di valorizzazione del territorio. Questo vuol dire che mentre appassionati di tutto il mondo pedalano in occasione di un tour virtuale o in occasione di una gran fondo virtuale, vengono intrattenuti e hanno l'opportunità di scoprire il territorio di riferimento in cui stanno pedalando virtualmente. Mi puoi fare un esempio in che modo vengono intrattenuti? Vengono intrattenuti perché immagina esattamente come succede nella realtà in occasione di un tour reale, anche nel virtuale, mentre si sta pedalando per esempio lungo le Cinque Terre, c'è un anchorman, una guida che introduce i partecipanti alle bellezze paesaggistico-culturali enogastronomiche del luogo in cui si sta pedalando. Quindi questa è l'opportunità per appassionati di tutto il mondo di scoprire il territorio in cui si sta pedalando virtualmente. Chiaramente lo step successivo, quando sperabilmente il prima possibile, queste stesse persone potranno, grazie a Pedalitali, avere l'opportunità di venire realmente in Italia a pedalare. Ecco, e allora virtuale e reale diventano un unico modello, se vuoi, di marketing territoriale, che noi stiamo chiamando, con una formula anche forse un po' criptica, di Never Ending Cycling. Per noi l'innovazione è proprio questa, no? Quella di aver messo reale e virtuale all'interno di un unico modello di cicloturismo e di valorizzazione dei territori. 3, 2, 1, parte ufficialmente 5 Terre Virtual Race. Per partecipare concretamente che si deve fare? Si va sulla nostra piattaforma, su endu.net, ci si iscrive all'evento e dopodiché si ricevono tutte le informazioni per poter partecipare, per poter downloadare il video del contenuto, ed è abbastanza semplice. La cosa più importante di cui bisogna disporre è un rullo intelligente, che sono degli strumenti che oggi sono connessi ad internet, su cui si posiziona alla propria bici e questi rulli si connettono alla piattaforma e mentre si pedala appunto si può ammirare il paesaggio reale del luogo in cui si sta pedalando. E ora Move, progetto di piste ciclabili modulari smart realizzate con materiali di recupero in plastica e gomma, se ne occupa una startup che si chiama Revo, fondata da quattro amici, quattro studenti, ma ne parliamo con Stefano Arvati, fondatore e amministratore delegato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Alessandra. Allora, intanto chi siete voi, fondatori di questa startup e ideatori di questo progetto? Era preta giusta, eravamo quattro studenti che sono diventati quattro amici, che sono diventati quattro soci. È un progetto che è nato nel 2018. Senti, ma Move per cosa è stata pensata e quali sono le sue applicazioni? Intanto raccontaci un po' che cos'è Move, io ho fatto una breve sintesi, ecco, di cosa si tratta? Allora, Move è un concept completamente nuovo di infrastruttura, pensata principalmente per quanto riguarda la mobilità sostenibile, soprattutto la mobilità ciclabile, ma può essere estesa poi anche altri sistemi di mobilità pedonale, monopattini, veicoli guida autonoma per le consegne, la SMAI, eccetera. La vera differenza rispetto a quello che attualmente viene considerata una pista ciclabile sta nella sua facilità di integrazione in quelli che sono i contesti urbani ed extraurbani e l'assenza soprattutto di opere di scavo, perché Move è completamente fatta in stabilimento, perciò all'interno di un'azienda, e poi viene posata a terra senza necessità di scavi. Questa è l'altra ulteriore grande novità. Tra l'altro proviene da materiali di riciclo, no? Di plastica riciclata, gomma. Assolutamente sì, Move è stata concepita fin dall'inizio per essere un prodotto che portasse un impatto positivo, diciamo, nella nostra società, perciò l'abbiamo pensata e realizzata in plastiche completamente rivenienti da riciclo, e oltretutto nel caso in cui ci fosse un danno, deve essere sostituita una parte di un pezzo di Move, questa potrà essere nuovamente riciclata, rientrare perciò nel percorso del riciclo e ritornare a essere nuovamente una pista. La vera differenza rispetto a quella che attualmente viene presentata come soluzione ciclabile è, come dicevo prima, che è come se fosse un grande Lego. Immaginatevi una grande scatola di Lego che arriva e, seguendo le istruzioni, viene premontata. Perciò fate conto che normalmente per una pista ciclabile, per un chilometro di pista ciclabile, ci vogliono dai 3 ai 6 mesi. Con il nostro progetto è una cosa realizzabile in poco più di 15 giorni, ma soprattutto potendo portare avanti pezzo per pezzo non si creano problemi soprattutto al traffico cittadino e relativi anche rumori e oneri dovuti alla cantierizzazione. E poi possono essere anche dotati di illuminazione, insomma hanno anche tutta una parte, come dire, smart, no? Esatto, Move porta con sé praticamente una soluzione chiave in mano, cioè a seconda del comune o del cliente che ci commissiona l'opera, viene fornita con tutta una serie di accessori che uno può scegliere di installare o non installare, quali illuminazione radente che può essere un on off oppure anche intelligente, perciò collegata a quelle che sono le caratteristiche ambientali, la semaforica radente integrata, tutta una serie di sensori che possono essere sensori ambientali, sensori di movimento, sensori in quel conto un semplicissimo contabiciclette e così via. Oltretutto, la struttura di Move, essendo una struttura cava, all'interno dei cavi dotti che le permettono di diventare un'infrastruttura abilitante anche per servizi di terzi. Si pensa ad esempio alla fibra ottica che si usa per la connessione internet. Ecco, anziché trovarci ancora quelle brutte trincee che spaccano la strada e noi con le biciclette che facciamo fatica a percorrere con le ruote, semplicemente ci saranno dei tappi sotto il manto che permetteranno un facile accesso anche per ciò utenti terzi. È possibile anche avere piste riscaldate, magari in quei luoghi un po' freddi dove si forma il ghiaccio? Sì, ci sono una serie di applicazioni dove andiamo a semplificare soprattutto l'installazione di competenze di terzi. Perciò un esempio, come facevi giustamente te, è quello del tappeto riscaldante, che è già stato anche questo progettato, che è stato richiesto soprattutto nei paesi dove ci sono tantissime forti escursioni termiche, ovviamente con gradi molto bassi. Perciò questo consente anche un'estensione dell'utilizzo in termini di fasce orarie e soprattutto anche una maggior sicurezza nel momento della percorrenza del ciclista. Un'altra installazione particolare è la possibilità di dotare la pista, anziché del classico manto, anche qua in plastiche riciclate, ma di un manto fotovoltaico carrabile. Questo permette oltretutto di far diventare la pista un generatore, diciamo, di ricavi. E quanto costa un chilometro di queste piste ciclabili? Attualmente siamo in fase di R&D, ma i prezzi stimati sulla base dei costi che abbiamo già certi, grazie ai fornitori che ci stanno collaborando, è stimato in un range tra i 280 e 350 euro al metro quadro. E questi erano altri due vincitori del bando Bike Touring di Invitalia e Mibat. Ora parliamo di altri vincitori, quelli del premio Urban Award, che questa settimana sono stati premiati in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, un riconoscimento che va ai comuni italiani più virtuosi nel campo della ciclabilità. Ne parliamo con Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com e anche ideatrice del premio. Buon pomeriggio Ludovica. Buon pomeriggio Alessandra e a tutti. Allora Ludovica, un premio direi particolarmente importante in questo 2020 in cui si è tanto parlato di bicicletta, in cui per varie ragioni anche legate all'emergenza sanitaria c'è stata una riscoperta di questo mezzo, il boom di vendite, insomma molte città poi si sono impegnate anche per migliorare la ciclabilità e voi come giuria avete individuato le migliori. Sì, beh, è stato, posso dire, quest'anno entusiasmante vedere come anche molti comuni del sud, lo voglio sottolineare, si siano mossi in questa direzione. Il focus è stato proprio la bicicletta, perché la bicicletta l'abbiamo riscoperto tutti. Oltre a distanziarci, naturalmente ci fa stare l'aria aperta, ci fa pedalare, mette in movimento il nostro fisico. E questo lockdown, questo periodo orribile, ha avuto questa come cosa positiva: farci davvero riscoprire un altro mezzo per muoverci nelle nostre città. E a salire sul podio, a giudizio unanime della giuria, quest'anno Parma. Parma ci ha incantato non solo per la molteplicità di interventi che ha fatto, che è da anni che però porta avanti per il Bike to Work, il Bike to School, ha fatto iniziative per la spesa in bicicletta, per l'illuminazione la sera, ciclista illuminato, per convincere le persone, perché c'è bisogno anche di far cultura e quindi di comunicare anche queste iniziative. E poi ha unito con questa campagna meravigliosa gusto e bicicletta, con quella affissione che ha fatto sorridere tutti: metti il culatello sul sellino piuttosto che fai girare i tuoi prosciutti, insomma tantissime iniziative anche legate all'arte e tutte in bicicletta. E poi c'è stata la sorpresa di Francavilla Fontana, un comune anche poco conosciuto da questo punto di vista. Ah, guarda, è stata molto discussa, perché Francavilla Fontana è un comune di medie dimensioni, non proprio piccolo, del Brindisino, pensa, che ha realizzato una serie di appunto iniziative del tipo: adotta una bici. Ogni commerciante doveva adottare una bici che serviva non solo per sponsorizzare la sua attività, ma per far muovere la gente in bicicletta. Quindi con un bike sharing sponsorizzato, e poi ha messo i vigili in bicicletta, e poi ancora ha fatto una campagna dicendo: il traffico sei tu. Cioè, nel Brindisino, che non è sicuramente la Puglia un territorio a misura di bici o aperto a queste innovazioni, noi abbiamo trovato davvero questo insieme di iniziative, il pedibus, e te ne potrei dire davvero altre, qualcosa di straordinario. Terza classificata, e qui non potevamo non riconoscere alla città, Comune di Pesaro, che la Bicipolitana è stata un'idea geniale, che ha avuto delle gambe anche molto lunghe, perché in tanti, anche se poi qualcuno l'ha chiamata ciclopolitana, insomma l'idea è quella di dare un colore alle ciclabili e di consentire la loro fruizione in maniera molto semplice e facile. Per cui, e non solo, stanno andando avanti, continuano, non si sono accontentati, stanno realizzando ancora chilometri e stanno promuovendo anche altre iniziative. E poi la grande scoperta, Alessandra, ve lo dico a tutti, Pone speciale Intesa San Paolo, quindi la consegnerà poi fisicamente anche Vittorio Brumotti a Cosenza, al sindaco di Cosenza. A un certo punto, vedendo le immagini, ci dicevamo: ma questa è Trento, Bolzano o Cosenza? Beh, è una riqualificazione con 20 chilometri di ciclabile, col del verde, e addirittura hanno messo in mezzo a un ponte una ciclabile, quindi hanno proprio rivisto la città e l'hanno studiata a misura di, come spesso e volentieri noi auspichiamo, tutti noi auspichiamo, a misura di persone. Bene, ci fermiamo qui, grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Voi scriveteci, raccontateci anche come sta andando il bonus bici, se avete ricevuto i rimborsi, se siete riusciti ad acquistare la vostra bici con il voucher. I negozianti ci raccontano che i mezzi scarseggiano, e vi lasciamo con una testimonianza, una per tutte, con la voce di Simone Carbutti, titolare dello storico negozio di Roma Cicli Lazzaretti. Ne parleremo poi nella prossima puntata. Ciao! La disponibilità in questo momento sul segmento più richiesto, che è quello che va dagli 800 ai 1000, 1200, circa è completamente terminata, perché è il segmento più ricercato, dovendo ovviamente cercare di scaricare al massimo il voucher, che è di 500 euro.